notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Elezioni in Gran Bretagna, la vittoria dei conservatori di Cameron, 6 punti percentuali di distacco almeno dai laburisti. Nazionalisti scozzesi a valanga, conquistano 59 seggi su 59 nella regione, UKIP dimezzato rispetto alle elezioni europee, un solo seggio e Farage fuori dal Parlamento. Stava aspettando l'autobus per andare a scuola un ragazzo di 19 anni, incensurato, ucciso a colpi di fucile nel Nuorese, a sparare due uomini incappucciati. L'aeroporto di Fiumicino ancora in difficoltà all'indomani dell'incendio che ha reso inagibile una parte del Terminal 3, che ora è stato riaperto, operatività dello scalo al 50%. Domani da Sanremo, con il crono prologo, parte il 98esimo Giro d'Italia, un grande romanzo popolare in cerca di rilancio, favorito Alberto Contador. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e il numero di sms durante la diretta è il 349-238-6666. In apertura parliamo delle elezioni che ci sono state in Gran Bretagna, ieri vi abbiamo raccontato dell'attesa ai seggi, oggi abbiamo finalmente i risultati, sono risultati che i sondaggisti non si aspettavano. Una vittoria veramente netta dei conservatori e tra l'altro una raffica di dimissioni nei partiti perdenti, dallo UKIP passando per il Labour e transitando per i liberal democratici. Il punto con il nostro inviato a Londra, Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Buongiorno Simone, sì, è stata una notte decisamente drammatica per la politica inglese, anche perché, come dicevi tu, i sondaggisti avevano totalmente depistato le previsioni. Cameron ha vinto, Cameron avrà la maggioranza perché già ha 325 seggi in questo istante, gliene manca uno per avere la maggioranza assoluta, ma la BBC ne pronostica già un totale di 331, quindi avrà una leggera maggioranza che gli consentirà comunque di governare, pur con qualche chiaramente difficoltà, perché i voti saranno 6 o 7 in più della maggioranza assoluta richiesta. E poi, come dicevi tu Simone, c'è la questione scozzese, perché a questo punto abbiamo una Inghilterra, Galles e Nord Irlanda che meno male seguono lo stesso percorso, con conservatori laburisti come partiti principali, e la Scozia che è totalmente o quasi in mano allo Scottish Nationalist Party, lo stesso che ha promosso l'anno scorso il referendum poi perso per l'indipendenza scozzese. Quindi si prevedono 5 anni di forti turbolenze sull'asse Londra-Edimburgo. E poi c'è anche la questione appunto UKIP. UKIP ha preso un solo seggio alla fine, però è anche vero che ha preso in termini proporzionali il 12% e in un'elezione britannica comunque dimostra un certo euroscetticismo. Dicevamo notte drammatica perché si è dimesso Nigel Farage, leader dello UKIP poco fa, anche se non è escluso di ripresentarsi alla guida del partito a settembre, quando ci saranno le loro primarie, potremmo chiamarle, e soprattutto si è dimesso Nick Clegg. I suoi liberal democratici hanno avuto un crollo verticale, hanno pochissimi seggi, una manciata di seggi e l'8% di voti a livello nazionale, ed è stato un discorso di addio alla leadership dei liberal democratici molto molto drammatico, potremmo dire quasi con le lacrime agli occhi. Sentiamo ora però le voci dei protagonisti, partendo con David Cameron questa notte. There's only one opinion poll that counts, and that's the one on election day. David Cameron ha definito quella notte di oggi come una notte molto importante, ha soprattutto confermato che ci sarà un referendum sull'Europa nel 2017, dentro o fuori dall'Europa, per la Gran Bretagna. Poi è tornato in auto a Londra dal suo seggio di Whitney ed è andato direttamente a Downing Street. Più tardi vedrà la regina che gli conferirà formalmente l'incarico di formare un nuovo governo, e dal vincitore al perdente Ed Miliband, leader dei laburisti. This has clearly been a very disappointing and difficult night for the Labour Party. Lo avete sentito, notte deludente, notte difficile per il partito laburista. Tra l'altro Ed Miliband quasi certamente, c'è ancora il quasi, ma potremmo tra poco anche toglierlo, si dimetterà da leader laburista, e quindi in una sola notte tre leader dei principali partiti britannici diranno addio alle loro cariche, quindi ci sarà un forte processo di rinnovamento all'interno dei partiti del Regno di Sua Maestà. Ti ringrazio, grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento da Londra, e più avanti nel corso della trasmissione, nel corso di Effetto Giorno, torneremo sulle elezioni britanniche. Proprio il nostro Sergio Nava ha realizzato un'intervista interessante con Vincenzo Scarpetta, un analista politico di Open Europe proprio là a Londra, col quale si parlerà tra le altre cose anche del referendum annunciato dal premier britannico, sostanzialmente rieletto, David Cameron, per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, referendum che si dovrebbe svolgere entro il 2017. Su tutto questo torneremo tra poco, ma intanto veniamo all'Italia, iniziando da una brutta storia di cronaca, una storia di cronaca che arriva dalla Sardegna. Sarebbero stati due gli uomini che questa mattina intorno alle 7.30 hanno sparato a Gianluca Monni, uno studente incensurato di 19 anni di Orune, freddato nel centro del paese mentre aspettava l'autobus per andare a scuola a Nuoro. Entrambi avevano il volto coperto e dopo l'omicidio sono scappati a bordo di un'auto. Il giovane, che è stato raggiunto da 3 fucilate, studiava all'istituto professionale Alessandro Volta, dove oggi le lezioni sono state sospese, sostituite da momenti di riflessione su quanto accaduto e dove tutti ricordano Gianluca come un bravissimo ragazzo. Al momento dell'omicidio con la vittima c'erano anche altri ragazzi che aspettavano lo stesso autobus. Testimonianze decisive le loro per i carabinieri, che ora stanno cercando di risalire agli autori del delitto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E aggiornamenti su questo delitto al momento apparentemente inspiegabile, su questo agguato al momento inspiegabile, appena ne avremo. Restiamo sulla cronaca e ci spostiamo a Fiumicino. Il giorno dopo il rogo, la normalità è tutt'altro che ripristinata, anche se la situazione è decisamente più tranquilla. Forse ci voleva poco. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così Simone, buongiorno. Si sente, dobbiamo dire, ancora un forte odore di plastica bruciata qui all'interno del T3 dal quale vi sto parlando, tanto che molte delle persone che lavorano qui nel terminal stanno indossando delle mascherine per meglio respirare. Comunque, lo dicevi, stamattina, a poco più di 24 ore da questo incendio, il terminal è stato riaperto. In questo momento ci dicono che circa l'80% dei banconi dei check-in è in funzione, resta però chiusa la zona transiti e, come prevede, ci sono molti disagi, lunghe code di passeggeri che sono in attesa di sapere se e quando partiranno, perché, come annunciato dalle autorità aeroportuali, anche dall'ENAC, oggi il 50% dei voli verrà cancellato e centinaia di persone hanno bivaccato in queste ore nella hall di questo terminal, ma anche degli altri terminal, per aiutare questi viaggiatori. Aeroporti di Roma ha allestito una task force che sta distribuendo acqua e generi di conforto. Ieri, lo ricordiamo, sono stati cancellati oltre 600 voli dopo questo rogo che ha distrutto circa 1000 metri quadrati della zona commerciale che si trova dopo i varchi di sicurezza del Terminal 3. La causa di questo incendio molto probabilmente è stato un cortocircuito. Si sta lavorando chiaramente in queste ore per riportare la situazione alla normalità, ma anche per il weekend diciamo che è facile prevedere che ci saranno ulteriori disagi, perché saranno necessari alcuni giorni perché prima che l'aeroporto possa tornare alla piena operatività, almeno così ci hanno detto gli addetti ai lavori. Simone. Grazie Andrea Viali per questo aggiornamento e vedremo se saremo in grado nel corso della trasmissione di tornare su questo tema e di avere dettagli ulteriori dalle autorità su quando effettivamente possa ritornare alla normalità l'aeroporto di Fiumicino, perché questa mattina le voci che circolavano parlavano addirittura di settimane. Vogliamo capire esattamente come funziona. Ci sono dei dati arrivati dall'Istat questa mattina, riguardano la produzione industriale. A marzo è aumentata dello 0,4% rispetto a febbraio, dell'1,5% rispetto all'anno precedente, dati positivi dunque. È l'aumento tendenziale maggiore da aprile 2014 ed è il secondo aumento trimestrale consecutivo. Rispetto a febbraio, in aumento la produzione dei beni di consumo e dei beni intermedi, diminuiscono i beni strumentali e l'energia. Anche in questo mese, come già era successo nei mesi precedenti, bene ha fatto l'auto cresciuta, la produzione di auto che è cresciuta, di autoveicoli che è cresciuta del 13%. Ma a proposito di economia, al centro del dibattito politico ed economico resta la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni e come supplire al buco lasciato dalla decisione della Consulta. Le novità di oggi con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno subito Simone. Con quanto ha precisato pochi minuti fa la Commissione Europea proprio su questo tema, non c'è una scadenza per l'Italia, viene spiegato, per comunicare a Bruxelles come intenda risolvere il problema delle pensioni dopo la sentenza della Consulta. Sembra allentarsi allora la pressione su Palazzo Chigi perché affronti in tempi brevi il nodo delle risorse per coprire il buco dei rimborsi, risorse quantificabili secondo alcuni studi fino a 16 miliardi di euro e che inevitabilmente potrebbero influire sulla sostenibilità proprio dei conti italiani. Ma su questo punto il ministro dell'economia Padoan rassicura l'Europa. Sentiamo allora le sue parole. Il governo sta lavorando nel rispetto dei termini della sentenza a identificare misure che, come ho già detto, minimizzino l'impatto di finanza pubblica, e queste misure saranno prese anche nel rispetto degli obblighi nei confronti delle regole europee. E sul fronte interno resta il rebus di chi rimborsare e in che tempi. Sindacati e molte forze politiche chiedono al governo che nessuno sia escluso indipendentemente dal peso del proprio assegno pensionistico. Sappiamo invece la volontà del governo, anticipata in parte dal sottosegretario Zanetti, di limitarsi ad alcune fasce di reddito con una restituzione che avverrebbe a rate e forse tramite titoli di Stato. Il rebus, insomma, per il governo è trovare una soluzione che non contrasti con la sentenza della Consulta, quindi equa, graduale e proporzionale, ma che eviti i problemi ai conti pubblici. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Nel frattempo questa mattina si è riunito il Consiglio dei Ministri e il governo ha dato il via libera a un decreto di attuazione della direttiva europea per la quale l'Italia era in ritardo, ed è la direttiva che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere i vertici delle banche non sottoposte a vigilanza BCE nel caso che mettano a rischio la gestione. È previsto un nuovo regime di sanzioni con importi più elevati e non solo alle persone fisiche. E a proposito di Europa, questa mattina avete sentito la voce del ministro Padoan. Padoan ha parlato nel corso di un incontro con il presidente dell'Eurogruppo, incontro nel quale si è toccato inevitabilmente ancora il tema della Grecia. Nessun accordo in vista per lunedì, l'Eurogruppo non sarà decisivo. A dirlo da Roma il ministro delle finanze olandese, nonché presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem. Atene ha fatto progressi, ma ancora non ci siamo, dice al termine del bilaterale con il ministro dell'economia Padoan. Quanto alla ristrutturazione del debito, Dijsselbloem conferma le aperture a patto che ci sia un'intesa sull'attuale completamento del programma, che si basa su tre pilastri: sostenibilità fiscale, ripresa economica, stabilità finanziaria. Fiscal sustainability, economic recovery and a stable financial sector. If we cannot put together that kind of program, then it's going to be very difficult. Dal canto suo Tsipras spera comunque che lunedì si possa arrivare ad un accordo ponte che consenta lo sblocco di una tranche di aiuti da parte di BCE, UE e Fondo Monetario Internazionale, ma la partita evidentemente ancora non è vicina ad una chiusura. I negoziati comunque andranno avanti per tutto il fine settimana. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione che eviti il default del paese, che martedì dovrà rimborsare altri 800 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ed è oggi una giornata nella quale a Firenze si celebra quello che viene definito lo State of the Union dell'Europa. Ha parlato anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dice c'è molto bisogno di Europa nel mondo e l'Europa deve osare di più. E ha parlato anche di politica italiana. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Se avessimo fatto ciò che dovevamo fare quando l'hanno fatto altri paesi europei, oggi la nostra economia sarebbe molto più forte. Se la riforma del lavoro, anziché farla nel 2014, si fosse fatta nel 2004, come in Germania, oggi noi avremmo una condizione occupazionale diversa. Se le riforme istituzionali, anziché farle adesso, se la legge elettorale fosse stata fatta prima, sarebbe stato un segnale decisamente diverso e decisamente più forte. Così Renzi. È iniziata da circa un'ora l'incontro, al Ministero dello Sviluppo Economico per la Whirlpool. L'avvertenza potrebbe portare a uno sciopero generale di tutta la città di Caserta, che si dovrebbe tenere prima del 31 maggio, prima delle elezioni regionali. Lo ha detto il segretario generale della Whirlpool Campania, Giovanni Sgambati. Il riferimento è evidentemente agli 815 esuberi che l'azienda l'azienda ha previsto per lo stabilimento di Carinaro, e siamo appunto in provincia di Caserta. Adesso torniamo all'estero e ci spostiamo in Pakistan, dove un attacco dei talebani ha portato alla morte di due diplomatici stranieri. La rivendicazione è arrivata a stretto giro. L'elicottero dell'esercito pakistano precipitato nel Gilgit Baltistan è stato colpito e abbattuto dai talebani del Tehrik e Taliban Pakistan. Tra le vittime, oltre ai piloti, gli ambasciatori della Norvegia e delle Filippine e le mogli degli ambasciatori di Malesia e Indonesia. Feriti invece gli ambasciatori di Polonia e Olanda. Nel messaggio il portavoce del TTP rivela che era stato messo a punto un piano per colpire il premier Nawaz Sharif. Abbiamo colpito l'elicottero con un'arma antiaereo, ha concluso il portavoce, e i piloti e i diplomatici stranieri sono stati uccisi. L'elicottero colpito faceva parte di un convoglio di tre mezzi che trasportavano un gruppo di personalità alla cerimonia di inaugurazione di un progetto, a cui era previsto l'intervento del premier, ma Sharif ha cancellato all'ultimo il suo viaggio. Il bilancio è ancora provvisorio, l'elicottero infatti si è schiantato su una scuola dove si stavano svolgendo lezioni e dove sono divampate le fiamme dopo l'impatto. Valeria De Rosa, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo nello spazio dove gli astronauti, tra cui Samantha Cristoforetti, potrebbero rimanere un mese in più. Abbiamo il servizio? Vediamo se è pronto. Samantha Cristoforetti dovrà aspettare ancora un mese per tornare a casa. Il rientro per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, previsto in Kazakistan il 14 maggio, slitterà all'11 di giugno. La causa del ritardo è il lancio fallito del cargo russo Progress, del gigante di 7 tonnellate partito il 28 maggio per portare rifornimenti all'equipaggio, si erano subito perse le tracce. Un bolide senza meta nello spazio che ha cominciato a ruotare su se stesso senza controllo e a scendere rapidamente verso l'atmosfera. Discesa imprevedibile che ha preoccupato non poco. Questa notte alle 4:04 ora italiana il veicolo si è completamente disintegrato sul Pacifico, confermano dall'agenzia spaziale russa Roscosmos. Uno dei rientri più bizzarri mai avvenuti, l'hanno definito gli esperti, e molte restano le domande aperte. Nessun problema comunque per i rifornimenti che arriveranno con una navicella americana. Ma per la Cristoforetti il soggiorno nello spazio sembra essere ancora lungo. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il traffico e poi ci ritroveremo a parlare di immigrazione dopo le dichiarazioni di ieri del ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha fatto riferimento ad una circolare emessa qualche mese fa, nella quale si diceva ai sindaci: cercate gli immigrati, se ce li avete nel vostro territorio potete utilizzarli per fare lavori socialmente utili, di fatto lavoro gratis in cambio dell'accoglienza. Ebbene, c'è qualcuno che in realtà questa circolare, questa direttiva emanata dal Ministero, l'ha già applicata. Un sindaco, il sindaco di Asti, è stato tra i primi. Parleremo con lui proprio fra un attimo. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Elezioni in Gran Bretagna, a dispetto dei sondaggi che davano incertezza, la vittoria è netta e dei conservatori. Cameron ha la maggioranza assoluta dei seggi. Si dimettono il leader laburista Miliband, quello liberal democratico Clegg e anche Nigel Farage, che non ha ottenuto un seggio. Nazionalisti scozzesi a valanga conquistano 58 seggi su 59 nella regione. Stava aspettando l'autobus per andare a scuola. Un ragazzo di 19 anni incensurato, ucciso a colpi di fucile nel Nuorese. A sparare sono stati due uomini incappucciati, stanno indagando i carabinieri. L'aeroporto di Fiumicino ancora in difficoltà l'indomani dell'incendio che ha reso inagibile una parte del Terminal 3, che ora è stato riaperto. Operatività dello scalo al 50%. E adesso ci occupiamo di immigrazione. Hanno fatto discutere molto e creato forti reazioni politiche le dichiarazioni di ieri del ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha detto gli immigrati bisognerebbe utilizzarli per i sindaci dovrebbero utilizzarli per fare lavori gratis sostanzialmente, in cambio ovviamente dell'accoglienza, del fatto che hanno vitto e alloggio. Ha suscitato proteste anche quella del leader della Lega Matteo Salvini, che ha detto Alfano si trasforma da scafista a schiavista con una sorta di gioco di parole. In realtà il ministro dell'interno faceva riferimento a una circolare che era stata emanata già in novembre e alla quale qualche comune aveva già dato attuazione, come per esempio il comune di Asti. Saluto il sindaco Fabrizio Brignolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconta che come funziona esattamente? Noi abbiamo, grazie a un accordo con la prefettura, che è il soggetto che gestisce le problematiche dei rifugiati, delle persone in attesa di asilo, abbiamo firmato questo protocollo d'intesa e diciamo ci sono, noi al momento ne abbiamo 9, ma la prospettiva è quella di aumentare ulteriormente 9 di queste persone che lavorano per il comune di Asti, hanno lavorato nei lavori pubblici, uno ai musei insomma fanno un'attività che a noi non costa nulla e viene invece il cui costo diciamo viene in qualche modo coperto dal Ministero nell'ambito degli stanziamenti che hanno per dare asilo a queste persone. Quindi è sicuramente che tipo di lavori fanno sindaco? Prevalentemente, come dicevo, lavori manuali, quelli che sono i lavori pubblici, e invece chi sta al museo è una persona che insomma apre, chiude, pulisce, fa anche, cioè, riceve anche i visitatori del museo, perché è una persona che insomma ha un'ottima capacità di relazione, sta imparando bene l'italiano. Quindi diciamo che dal nostro punto di vista il bilancio è sicuramente positivo. Anche perché i comuni non hanno più risorse, quindi non è che tolgono lavoro a qualcun altro, cioè noi se non avessimo questi non è che avremmo i soldi per fare un appalto o commissionare ad altri queste attività, sarebbero attività che probabilmente non riusciremmo a fare. A fare in altro modo. La fermo un attimo, sindaco, perché abbiamo un paio di sms di ascoltatori. Uno ci scrive: anche a Torino, circoscrizione 4, questo avviene senza obbligo, hanno aderito molti richiedenti asilo fermi da mesi senza far niente, si sono resi utili volentieri e con dignità, prendono comunque qualcosa. Un altro ascoltatore ci fa un'osservazione un po' più politica sulla quale io vorrei una risposta. Sindaco, dice: io lo chiamerei sfruttamento questo, perché non vengono pagati. Assolutamente no, intanto non è vero che non vengono pagati, nel senso che, come dicevo, fa parte insomma del budget che il Ministero ha per dare loro vitto e alloggio, e se anziché dargli vitto e alloggio direttamente gli dà un corrispettivo che loro utilizzano per pagarsi vitto e alloggio, direi che la cosa è anche più dignitosa. Anzi, io devo dire che normalmente proprio le persone più intraprendenti sono quelle che cercano di inserirsi, perché non è solo un modo per non stare a fare i perdi giorni per tutta la giornata, ma è anche un modo per mettersi alla prova, stabilire relazioni, contatti personali. Questo vale per chiunque sia senza lavoro, è sempre meglio essere comunque attivo anche con questi tirocini che di fatto magari danno una retribuzione molto bassa, ma consentono comunque di stabilire delle relazioni che un domani possono trasformarsi anche in opportunità magari o di formazione professionale o di lavoro. Quindi assolutamente questo discorso dello sfruttamento mi sembra che non stia assolutamente in piedi. Del resto ricevono un grosso aiuto dalla comunità italiana queste persone, quindi se in parte come dire ritornano con la loro attività un po' di utilità alla comunità che li sta ospitando, credo che sia una cosa assolutamente utile. Noi, devo dire, lo facciamo anche con i carcerati, abbiamo anche dei carcerati che a titolo volontaristico lavorano alcune ore, per loro è un modo come dire per non stare chiusi e quindi per svolgere attività all'esterno, ma anche siamo sempre lì per sviluppare una professionalità, per sviluppare dei contatti che poi magari un domani tornano utili proprio anche dal punto di vista del reinserimento lavorativo. La ringrazio, grazie a Fabrizio Brignolo, e non Brignolo, come ho detto inizialmente, il sindaco di Asti. Grazie per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Vedo molti sms a parte vostra su questo tema. Qualcuno ci scrive che perché tutto questo scandalo, per me in questo modo gli si dà anche una dignità, altri naturalmente sono contrari. Passiamo alla politica italiana. Come sapete, ogni venerdì c'è il nostro Daniele Biacchessi che ci fa un punto su un argomento di attualità della settimana, così come fa il lunedì. Oggi si occupa della successione a Palazzo Marino, perché, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, qualcuno sta spingendo e sta premendo perché Pisapia si ricandidi. No, Pisapia non si ricandida per la seconda volta alla guida di Milano. In molti, dopo il bagno di folla e il consenso della manifestazione di domenica scorsa contro le violenze del primo maggio, avevano creduto ad un ripensamento di Pisapia. Lo avevano chiesto almeno 20.000 cittadini scesi in piazza a fianco della giunta. Invece ha declinato per la seconda volta l'offerta. Dice in queste ore Pisapia: credo di aver sempre dimostrato coerenza. Ho fatto una scelta 4 anni e mezzo fa che mi sarei candidato per 5 anni. Ho dato e continuerò a dare in questo anno tutto il mio impegno alla città e anche dopo, perché sono un milanese che ama e ogni giorno è più innamorato della sua città. Nella sua dichiarazione successiva c'è qualcosa che in politica si è visto poco o nulla, in un sistema dove spesso si è attaccati come cozze alla poltrona. È necessario passare il testimone alle generazioni che in questi anni sono cresciute e maturate e sono pronte ora per governare la città. Sì, ma quali possono essere i nuovi politici in grado di guidare Milano nel 2016? Nel centrodestra la tentazione è tutta del segretario della Lega Matteo Salvini, che però, secondo i primi sondaggi, non attirerebbe i moderati e la borghesia illuminata milanese, da sempre ago nella bilancia nelle elezioni amministrative, circa il 30%. Il volto nuovo di Forza Italia potrebbe essere Silvia Sardone, ma che al momento è semplicemente una consigliera di zona 3. Per il PD sono in campo Emanuele Fiano e Pierfrancesco Maiorino. Per una coalizione più ampia di centrosinistra è disponibile Umberto Ambrosoli. Resta ancora in campo Antonio Di Pietro. Una cosa comunque certa: dopo la rinuncia definitiva di Pisapia, la confusione intorno al futuro di Palazzo Marino resta ancora grande e tutto rimane in movimento. E se Silvio Berlusconi scendesse in campo? Così Daniele Biacchessi sul sindaco di Milano. Una nota all'ascoltatore via SMS che scrive: tutta qua la copertura delle elezioni inglesi, forse non ha sentito dall'inizio, ci siamo occupati per 5 minuti in apertura di Effetto Giorno. Se vuole un riassunto dei seggi glielo diamo, perché è anche giusto, è la notizia di questa giornata: 325 seggi al momento per i conservatori e per Cameron, 230 soltanto per i laburisti. Cameron è ad un passo dalla maggioranza assoluta, che arriva a 326 seggi. Lo UKIP prende solamente un seggio e lo perde il leader Nigel Farage, che si è dimesso, così come si è dimesso il leader dei laburisti. Lo Scottish National Party al momento ha 56 seggi, si pensa che possa arrivare ai 59, quindi ai 58, perdon, conquistando quasi tutti quelli della regione tranne uno. Siamo al Giro d'Italia che parte domani. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh sì, domani parte il Giro d'Italia, il numero 98, anche se bisognerebbe dire che durante le guerre ci sono state sospensioni. La prima notizia è che il Giro parte da Sanremo. Di solito con la Milano-Sanremo si arriva, invece questa volta si cambia. È un Giro tutto giocato sulla Liguria nelle prime quattro tappe, un po' in omaggio a tutto quello che è successo nei mesi scorsi, che è una regione flagellata dal maltempo, dall'incuria dell'uomo, e poi un omaggio a una regione che col ciclismo ha avuto sempre un fitto intreccio, 97 volte è stata sede di tappa. Che dire di questo giro? È un giro che, come dicono a Genova, con la faccia un po' così, perché mancano i due grandi big, Nibali e Quintana. Nibali ha vinto il Tour dell'anno scorso, Quintana il Giro dell'anno scorso, e ci sono quattro altri campioni, che uno è Alberto Contador, che è il principe del ciclismo, e poi però tre figure un po' minori: Rigoberto Urana, Ricky Porte e il nostro giovane Fabio Harold, che è la rivelazione del ciclismo italiano, che è un giro tutto da scoprire, perché in realtà appunto parte un po' col profilo basso, però il ciclismo in genere ci ha abituati a scoprire un giro strada facendo, e quindi può darsi che poi ci siano bellissime cose. Va detto una cosa, che il ciclismo, soprattutto in questi ultimi anni, anche il Giro d'Italia, devono recuperare un po' di credito. Cioè, il Giro d'Italia era il romanzo dell'Italia, una volta si diceva, era un modo per narrare il nostro paese. Con quello che è successo nel mondo professionistico, il doping, quello che era successo a Pantani, si è creata una forbice con il mondo della bicicletta. Il mondo della bicicletta è quel mondo che vediamo ormai crescere alla grande, perché nelle città, con la bike sharing, nella villeggiatura, negli agriturismi, in tutto il paese. Ecco, il Giro d'Italia dovrebbe avere questo obiettivo: ricolmare questa frattura e riportare gli appassionati anche sulle strade del Giro d'Italia. Ti ringrazio, grazie al nostro Dario Ceccarelli. A me non resta che ricordarvi che ogni giorno dopo il giornale radio delle 7 avremo l'appuntamento Voci dal Giro, da lunedì al venerdì, collegamenti e commenti in tutti i convocati a partire dalle 14, sabato Voci dal Giro dopo il giro delle 18 e ogni domenica all'interno di tutti i convocati il commento della settimana di mica di uno qualunque, di Ivan Basso. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le elezioni in Gran Bretagna, i conservatori al momento a 325 seggi, i dati non sono ancora definitivi ma dovrebbero avere la maggioranza assoluta, si fermano a 230 i laburisti, si dimette il leader laburista Miliband, Cameron dunque verso un nuovo mandato. Bene, i nazionalisti scozzesi che conquistano quasi tutti i seggi nella regione, nello UKIP si dimette Nigel Farage dopo aver perso il seggio nel suo stesso collegio. Un omicidio al momento inspiegabile, stava aspettando l'autobus per andare a scuola, un ragazzo di 19 anni incensurato è stato ucciso a colpi di fucile nel Nuorese, a quanto pare da due uomini incappucciati. L'aeroporto di Fiumicino ancora in difficoltà all'indomani dell'incendio che ha reso inagibile una parte del terminal 3, ora riaperto, operatività dello scalo al 50%. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. A proposito di elezioni inglesi, il nostro inviato a Londra, Sergio Nava, ha intervistato un italiano che si chiama Vincenzo Scarpetta e che è analista politico di Open Europe. Cos'è Open Europe? È un think tank, uno dei più importanti think tank del mondo, almeno tra quelli che si occupano di Europa, e la chiacchierata si è concentrata, tra le altre cose, anche sull'ipotesi di referendum che faccia uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea, referendum che si terrà perché Cameron lo ha promesso. Sentiamo. Io mi aspettavo che, personalmente, che il Partito Conservatore finisse in testa, cioè che fosse il partito con il maggior numero di seggi, perché solitamente, anche per via del sistema elettorale, quando i due partiti principali sono appaiati in termini di percentuali, il Partito Conservatore è quello avvantaggiato, quello che riesce a vincere un maggior numero di seggi. Sinceramente le proporzioni della vittoria del Partito Conservatore erano difficili da immaginare, siamo praticamente alla maggioranza assoluta. Cosa ha convinto alla fine gli inglesi, secondo te, a optare per Cameron, per riporre nuovamente la fiducia in Cameron? Io credo che sostanzialmente, piaccia o meno, i dati macroeconomici sono dalla parte di David Cameron. C'è una ripresa economica ed è una ripresa con lavoro, perché si stanno creando posti di lavoro, soprattutto nell'ultimo anno, più di quanto non si sia fatto in nessun altro dei grandi paesi dell'Unione Europea. Quindi, dati alla mano, la ricetta del Partito Conservatore, che pure è stata criticata nel corso del primo mandato di David Cameron, sta funzionando, almeno a livello di dati. E dall'altra parte c'è invece il Partito Laburista, che evidentemente non ha convinto con la sua ricetta, che non ha mai effettivamente riconosciuto che comunque ha lasciato il paese nel 2010 in condizioni economiche non esattamente eccellenti, e c'erano anche comunque questioni e punti di domanda riguardo alle capacità effettive di leadership di Ed Miliband, dello sfidante laburista. Quindi credo che la combinazione di questi due fattori alla fine abbia influito, abbia condotto l'elettorato britannico a dare nuovamente fiducia a Cameron. Quella che va in frantumi è anche la affidabilità dei sondaggisti. Nessun sondaggio preelettorale ha captato le vere intenzioni di voto. Questo ti ha sorpreso personalmente, vivendo qui in Inghilterra da diversi anni? È abbastanza incredibile, perché praticamente tutti i sondaggisti sono andati abbastanza lontani dal prevedere quello che poi è stato il risultato di queste elezioni, mentre l'exit poll di ieri sera ha praticamente individuato perfettamente quello che poi è stato il risultato finale, anzi ha attribuito qualche seggio in meno al Partito Conservatore, ma certamente aveva già evidenziato questa grossa differenza. Tema Europa-Gran Bretagna, a questo punto il referendum nel 2017 è sicuro al 100%, potremmo dire. Sì, il referendum si farà perché ne va della credibilità di David Cameron come leader politico e della credibilità del Partito Conservatore. Addirittura il Partito Conservatore con una maggioranza così ampia non c'è motivo per cui David Cameron non debba mantenere la parola data. Quindi io credo che il referendum si farà, e si farà prima della fine del 2017, che è un po' il piano di David Cameron. La sua intenzione è quella di negoziare per 2 anni ora con l'Europa una riforma dell'Unione Europea. Il problema è quanto troverà margini di accordo con i leader europei e con la stessa Commissione Europea. Finora le premesse non sono state molto buone. Lo vedremo, credo, presto, perché già a fine giugno c'è il prossimo Consiglio Europeo, quindi si incontrano i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, e credo che già lì David Cameron comincerà a testare un po' la situazione. Così Vincenzo Scarpetta, analista politico di Open Europe, al microfono del nostro inviato a Londra Sergio Nava. Fabrizio Nardoni, assessore all'agricoltura in Puglia, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. L'abbiamo chiamata perché ieri, gli ascoltatori lo sanno perché la notizia l'abbiamo data, il TAR del Lazio ha sospeso la dichiarazione dello stato di emergenza per la diffusione in Puglia del batterio Xylella e quindi il piano di intervento che comprende in parte anche l'abbattimento degli ulivi. A questo punto che succede, assessore? E succede che il commissario non ha più la funzione. Io proprio adesso ho finito una riunione presso il Consiglio dei Ministri, presso la Protezione Civile, per cercare di capire come dobbiamo adempiere. Fatto sta che il commissario non può più procedere e quindi in questo momento le attività sono sospese. Noi come assessorato alle risorse agricole comunque continueremo a mettere in atto le attività di monitoraggio, ma tutto ciò che riguarda il piano di intervento in questo momento è completamente fermo. Lunedì c'è una riunione presso il Ministero delle Politiche Agricole e dell'Agricoltura a Roma, anche con la Protezione Civile, per definire da farsi. Sta pensando eventualmente anche di, come dire, ricorrere al Consiglio di Stato, si sta pensando, dobbiamo capire come dobbiamo muovere. Come dovete muovere? Perché tra l'altro, Nardoni, abbiamo pochi secondi, il TAR nel sospendere il piano di emergenza ha fissato la prima udienza al 16 dicembre. Ora, tutti noi sappiamo che il batterio della Xylella si diffonde prevalentemente d'estate, questo vuol dire che c'è tutta un'estate di mezzo nella quale, se tutto resta fermo, la Xylella rischia di diffondersi ancora di più. Non possiamo rimanere fermi, assolutamente bisogna agire. Tra l'altro c'è anche la Comunità Europea, la Commissione Comunitaria, che sta per, entro il massimo fine maggio, sta per emettere un nuovo piano di intervento, per cui noi dobbiamo essere pronti a poter agire, non ci possiamo permettere di aspettare a dicembre, ma non possiamo neanche scherzare su questa cosa, per cui adesso lunedì vedremo quali sono gli adempimenti da mettere in atto. Fatto sta che comunque noi abbiamo comunque come assessorato all'agricoltura a livello regionale, siamo nelle condizioni di procedere, ma siamo di procedere solo per determinati tipi di intervento, per cui lunedì assolutamente bisogna agire per cercare di continuare a fare il nostro lavoro. La ringrazio, grazie Fabrizio. Prego, Nardoni, assessore all'agricoltura della Puglia, le auguro una buona giornata. Traffico.